la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, giovedì 23 di aprile, 16.30 primi 56 secondi, siamo in diretta qui dagli studi di Milano. Vi ricordo sempre l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per le puntate in media, stanno diventando una su due, in cui siete voi protagonisti perché vi proponete con le vostre storie, le vostre opinioni e l'argomento invece del giorno. Per intervenire, il numero di telefono lo sapete, 800 24 00 24, e per le opinioni con gli sms il 349 238 6666. Poiché è in corso il summit straordinario, il Consiglio europeo dedicato alle decisioni da assumere per il potenziamento dell'azione comune nel Mediterraneo dopo l'ennesima tragedia del mare giorni fa con i trafficanti di carne umana dalla Libia e l'Italia che in pochi mesi ha dimostrato a tutto il mondo che la missione Triton che aveva sostituito Mare Nostrum è totalmente inadeguata a fronteggiare questo flusso. Il Consiglio europeo ha visto nelle ultime ore e mezzo l'arrivo dei leader, più tardi sono attese le decisioni. Avrete capito però dalle anticipazioni molto ricche dei media in questi giorni che si tratta di fare un salto, speriamo, di qualità e di mezzi e di risorse. Non è ancora molto chiaro quale sia, diciamo così, la parte di coordinamento umanitario, A, B, la disponibilità reale sulle quote di assorbimento dei rifugiati, che sapete essere il punto molto delicato perché l'Italia da sola non ce la fa. E terzo aspetto, l'aspetto su cui i giornali hanno molto insistito, quello invece più militare di questo nuovo impegno europeo che dovrebbe in queste ore prendere forma, un impegno militare che a propria volta ha bisogno ovviamente dell'egida delle Nazioni Unite, perché abbiamo a che fare con un paese oramai privo di statualità e in preda a lotte interne tra più governi, più milizie, più fazioni più o meno islamiste come la Libia, e quindi ci vuole anche l'egida dell'ONU. Quello che è evidente nelle dichiarazioni dei leader all'inizio del Consiglio europeo è che c'è un salto di qualità delle disponibilità, nel senso che non era scontato che la Spagna dichiarasse quello che ha dichiarato ieri il primo ministro spagnolo, promettendo mezzi militari cospicui. Non era affatto scontato quello che ha detto stamattina al Times il primo ministro britannico Cameron, che pure è sotto elezioni, quindi io mi sarei aspettato che stesse discosto da questa partita, e invece ha annunciato l'impegno della nave ammiraglia della Royal Navy, la Bulwark, che è una nave d'assalto anfibio, piattaforma per elicotteri pesanti, e che a propria volta poi ospita mezzi da sbarco di una unità del Royal Marines. E comunque la nave ammiraglia ha dato disponibilità non solo di questa ma di altre due navi militari e di elicotteri militari. È evidente che la Gran Bretagna e si considera impegnata quindi in un coordinamento di forze militari di un certo peso proprio per il fine che tanto fa discutere l'Italia, per capire anche di che si tratta, e lo vedremo anche oggi in questa trasmissione, come si può fare davvero e che cosa può ottenere, cioè la famosa finalità di non far partire le barche, altresì detto blocco navale, anche se molti su questo storcono il muso perché sono le parole che ha usato il leader della Lega Salvini. Allora, per capire meglio, io sto aspettando di capire se abbiamo l'ospite collegato perché non mi compare, per il momento non ce l'abbiamo. Abbiamo due ospiti per capire meglio, nel frattempo che aspettiamo il Consiglio europeo, siccome sono esperti soprattutto di questioni di politica militare, in che cosa può consistere davvero questo dispositivo congiunto, come si può fare. I giornali vi hanno annunciato anche stamattina e la polemica è iniziata ieri che i droni velivoli a pilotaggio remoto, i Predator disponibili della nostra aeronautica militare non sono armati, c'è stata una polemica su questo, si è detto che il placet americano per armarli c'è ma che occorreranno alcuni mesi. Io non sono particolarmente convinto che i predator armati servano per azioni contro le piccole imbarcazioni stipate all'inverosimile di poveri migranti, però detto questo mi affido a chi ne sa più di me. Allora abbiamo intanto il primo ospite collegato, nel frattempo che poi speriamo anche che telefonate per dirci che cosa vi aspettate dalle decisioni di oggi, se davvero l'Italia non sarà più sola, in altre parole, se ci credete davvero a questi impegni, chiamate l'800 24 00 24. Intanto abbiamo collegato con noi il direttore di Rivista Italiana Difesa. Rivista Italiana Difesa è un mensile che ha la più antica tradizione di informazione nel settore militare, difesa e sicurezza del nostro paese. C'è anche il sito, se lo andate a consultare, www.rid.it, e il direttore Pietro Battacchi è collegato con noi. Buon pomeriggio e grazie, direttore. Buon pomeriggio Oscar, grazie peraltro anche della bella presentazione. No, figuriamoci, io sono lettore da quando ero piccolo, ma non sono solo, sono in tanti. Partiamo dalla polemica di questi ultimi giorni, la polemica secondo la quale i mezzi che abbiamo a disposizione come i Predator in realtà non sono armati come se fosse per colpa di qualcuno. È vero, sono quelli mezzi utili per questo tipo di missione? Ma guarda, innanzitutto vorrei dire si tratta di una polemica abbastanza frivola, nel senso, lo si sapeva che i droni Predator italiani non sono armati, non lo sono mai stati di fatto. Noi abbiamo chiesto da un po' di tempo l'autorizzazione, la possibilità di armarli, gli americani ce l'hanno dati, ma la capacità sarà operativa tra diversi mesi, per non dire oltre un anno. Ecco, quindi questo mi pare sia una polemica abbastanza campata in aria. Io da quello che capisco, quelli dovrebbero essere utili soprattutto per potenziare al massimo livello, e non solo con mezzi italiani ma con quelli di questa coalizione che si va formando, la sorveglianza radar aeronavale il più possibile vicino alle coste libiche per capire che cosa si muove, più che per intervenire militarmente, o sbaglio? Appunto, un conto è la sorveglianza, i Predator comunque è un ruolo che sanno fare molto bene, un conto però è utilizzare il drone come per distruggere, per attaccare queste imbarcazioni e gli obiettivi. È una cosa diversa in questo caso, una cosa diversa perché lo scrivevamo proprio stamattina sul sito che tu citavi prima, ovvero siamo di fronte a una serie di bersagli che per la loro natura richiedono la conferma visuale, in questo caso che il drone ci mancherebbe, visto che si tratta di centinaia e centinaia di persone a bordo, perché cioè, mi sembra inimmaginabile, no, che si possa fare azioni militari in remoto senza avere una ricognizione diretta una volta che ci sono gli allarmi radar e si tratta di identificare bene che tipo di natanti sono. Quindi secondo me c'è bisogno di un dispositivo presente nelle acque o con mezzi però pilotati come gli elicotteri o aerei che poi vanno a verificare che cosa c'è in acqua. E ci mancherebbe altro che ci mettiamo solo a fare il tiro a segno senza vedere, o sbaglio? Guarda, poi abbiamo visto purtroppo quello che è successo proprio in questi, che è stato annunciato in realtà in questi momenti, ovvero l'uccisione del cooperante italiano Lo Porto in Pakistan in un drone da parte degli americani. Della CIA, con un'operazione che si è svolta in gennaio, che ha eliminato importanti leader qaedisti, però il cooperante italiano che era loro prigioniere Lo Porto risulta tra le vittime. Per cui diciamo il drone è un'arma utile per fare alcune cose, molto molto scivolosa per farne altre. Io poi vorrei aggiungere una cosa, politicamente negli ultimi tempi, soprattutto da quando c'è l'amministrazione Obama, che come notorio non è che abbia una politica estera così solida, vengono usati come una sorta di surrogato per la mancanza di questa politica, per cui non ci si vuole impegnare all'estero, non ci si vuole tantomeno impegnare con forze di terra, allora utilizziamo il drone, il robot, che è un'arma comunque a costo zero, a basso rischio, e che appunto diventa una sorta di surrogato per la nostra deficienza di strategia. Questo mi pare abbastanza chiaro. Poi tornando alla questione specifica degli scafisti e delle imbarcazioni, in questo caso il mezzo più utile, più sensato sarebbe quello di un'operazione con gli elicotteri, gli elicotteri imbarcati che hanno comunque pod di razziere, mitraglieri a bordo che possono avere la conferma in visuale dell'obiettivo, possono verificare se l'imbarcazione lì è effettivamente l'imbarcazione degli scafisti oppure se è piena di scudi umani piuttosto che di poveri immigrati. Posto che occorre una cornice di intelligence a terra sia da parte di operatori dei nostri servizi, ma aggiungo io accompagnata anche da un minimo di operatori delle forze speciali per la cornice di sicurezza, in grado di darci il quadro della situazione, per cui non è un'operazione di polizia, la si è chiamata operazione di polizia internazionale, però è un'operazione molto, molto complessa e molto pericolosa da questo punto di vista e occorrono tutta una serie di precauzioni. Il drone in questo caso può essere utile per dare la copertura di sorveglianza, per fare una sorveglianza di punto che in questo caso sarebbe molto utile, ma per distruggere lo scafo, l'imbarcazione ci vuole altro ovviamente, posto che il problema non si risolve in questo modo, ma sappiamo tutti come si potrebbe risolvere, posto che sia risolvibile. Allora Pietro, una delle cose su cui ho visto i giornali meno attenti, forse perché è anche una materia sulla quale poi le informazioni sono diciamo meno pubbliche e meno aperte, riguarda esattamente il coordinamento dell'intelligence, poiché adesso inizia a essere più chiaro a tutti, non solo al governo italiano ma al concerto internazionale, che la trama di chi opera il traffico dei rifugiati che scappano dalla Siria, dall'Iraq, a tutta la fascia subsahariana, dal Mali, dal Niger e così via, è una trama fatta di connivenze o addirittura di gestione diretta per finanziarsi, in cui veri e propri criminali internazionali in realtà fanno affari e li fanno compartecipando a diverse milizie senza di cui non potrebbero, attraversato il deserto, poi avere le sistemazioni e la logistica per far partire gli scafi dalla Libia e così via. La domanda che ti faccio, Pietro, è questa qua: ma a oggi, per quello che potete sapere voi, l'intelligence militare italiana è ancora presente con una sua rete di contatti capillari con le diverse tribù libiche, capace di mettere a matrice comune con gli americani, i britannici, gli spagnoli, gli egiziani, i turchi se vorranno cooperare, le informazioni vere senza delle quali credere di aggredire il traffico internazionale che poi fa partire le barche dalla Libia resta un'illusione? Ce l'abbiamo noi ancora le disponibilità di intelligence in luogo ai contatti giusti secondo te? Guarda, io credo che comunque tradizionalmente noi abbiamo una buona, anzi un'ottima intelligence in Libia. Non so in questi diciamo mesi, in questo anno soprattutto di grandi cambiamenti, di guerra civile, cosa sia effettivamente rimasto in piedi di quella struttura, infrastruttura che noi avevamo in Libia. Spiace notare che comunque anche lo stesso comparto di intelligence nel momento di massima, diciamo, di massimo pericolo per l'Italia è stato sottoposto a tagli continui. Infatti su questo ci torniamo tra poco, perché io mi sono sorpreso nel leggere per esempio Repubblica, che è da sempre all'attacco per tagliamo le spese militari, nel leggere in questi giorni ma la Marina ha pochi mezzi, ma l'Aeronautica ha pochi mezzi, se si vuole tagliare lì è ovvio che poi i mezzi sono quello che sono rispetto a quello che noi gli chiediamo di fare fino allo spasimo. Ti dobbiamo richiamare perché la qualità del collegamento è un po' bassa, nel frattempo ci sentiamo tra 60 secondi perché abbiamo le informazioni sulla strada. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta. Molti rispondono dicendo che avete equivocato, nessuno pensa di affondare le barche con gli migranti a bordo, e ci mancherebbe. Il problema è che però bisogna, per tentare, come sembra una delle richieste italiane, uno dei punti del documento sottoposto al Consiglio europeo, di fermare il più possibile il traffico immediatamente ancora nelle acque libiche. Per questo bisogna avere una vigilanza aeronavale, radar, lì sì che servono anche i droni, molto intensa per identificare a distanza i movimenti anche di piccoli natanti. Cosa diversa è colpire i natanti che sono ancora a disposizione delle reti nei porti prima che partano, però servono entrambe le cose, per essere chiari. Intendo rassicurarvi che non sono di quelli che pensano che la soluzione sia mitragliare e cannoneggiare i natanti con la gente a bordo. Quando si dice blocco navale, e lo stesso Salvini dice questo, non dice spariamo addosso alla gente, vorrei evitare, perché le polemiche italiane poi naturalmente per convenienza politica enfatizzano le espressioni. Di fatto quello che tanto ha fatto discutere, cioè quello che disse Salvini domenica mattina, non è diverso da quello che poi il Presidente del Consiglio ha detto quando ha usato cerchiamo di non farli partire. Il chiarimento è che se noi teniamo troppo dietro questa rete che si va formando di disponibilità di mezzi aeronavali nelle acque internazionali o il più possibile in prossimità delle acque italiane come era Triton, allora non funzionerà, perché significa semplicemente che a quel punto li prendiamo tutti a bordo e restiamo come prima, cioè li teniamo tutti in Italia se non c'è un nuovo accordo europeo su come ci si ridistribuisce. Ecco, questi sono alcuni dei punti. Sentiamo le vostre telefonate, poi le facciamo commentare al direttore di Rivista Italiana Difesa. Il secondo ospite, che era Andrea Margelletti, che stava tornando agli Stati Uniti, evidentemente l'aereo è in ritardo perché c'è ancora il telefono staccato. Cominciamo sentendo l'opinione di Alberto, che ci chiama da Massa. Prego Alberto. Oscar, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Sì, eccoci qua. Ascolti, io vedendo un po' tutte le trasmissioni, sentendo la radio anche voi, una domanda che non ho visto porre da nessuno agli esperti. Io non so qual è la soluzione per fermare i barconi, bombardando o non bombardando, non lo so. Se li fermiamo, i 300, 400, 500, non penso un milione, 350.000 persone oggi ferme in Libia, in lager, prigioni, in che condizioni sono, che fine fanno? Ecco, questa, Alberto, in altre parole, è l'osservazione che ha fatto Henry De Luca. Lui si è spinto un po' oltre Henry De Luca in televisione tre sere fa, ha detto tanto a quel punto se credete di chiudere una porta se ne aprirà un'altra, perché c'è una pressione di queste centinaia di migliaia di persone e soprattutto chi organizza il traffico, che non si risolve chiudendo la porta libica. Giriamo la tua domanda a Pietro Battacchi, ma raccogliamo anche quella di Manuel che ci chiama da Trieste. Prego Manuel. Sì, salve Oscar. Volevo sapere una tua opinione su un parallelismo con la Russia sulla questione ucraina. Cioè, gli Stati Uniti non vogliono impegnarsi nella questione mediterranea, però ci chiedono di fare delle sanzioni alla Russia che noi costano una montagna di soldi e poi ci lasciano a piedi, non ci danno un aiuto per quanto riguarda quello che ci interessa a noi, che è il Mediterraneo. Cosa ne pensi? Ma io penso che la politica estera di questa amministrazione americana sia stata una delle più deficitarie da tempo, sommando presidenti democratici e repubblicani. Aggiungo anche che gli entusiasmi americani per la prima fase della primavera arabe, io scrissi criticamente sin dall'inizio che non capivo bene, o c'era dietro un piano non dichiarato di immaginazione di forti sostegni per lo sviluppo successivo della primavera arabe, oppure il rischio era enorme. Poi questo piano si è verificato non esserci, come non c'era un piano di nation building nell'intervento in Libia nel 2011, fortemente voluto in quel caso dai franco-britannici, a cui però gli americani cooperarono a come. Ed eccoci qua, sono tutti errori sommati che compongono il quadro che è di fronte a noi. Questa è la mia personalissima opinione, quindi è una presidenza il cui bilancio, ma la politica estera, per quello che mi riguarda modestissimamente, è molto molto molto critico. Sentiamo ancora Luca da Bologna. Sì, buonasera Oscar, buonasera a tutti. Volevo fare solo una domanda. Abbiamo sentito di Predator armati, non armati, eccetera. Io volevo capire una cosa, ma quale figura sul campo ha la responsabilità di decidere se il natante è un natante che va abbattuto o colpito, oppure se invece è di un peschereccio libico che sta facendo... No, tu dici chi prenderebbe le decisioni a quel punto. Allora, qui c'è un aspetto su che tipo di coalizione potrebbe nascere nel coordinamento di questi mezzi militari, e questa è una domanda tecnica che giriamo a Pietro Battacchi, e poi c'era la questione anche del primo ascoltatore. Allora, Pietro. Allora, il primo, finisco l'intervento sì. di prima relativamente all'intelligence, poi io purtroppo mi sono perso la prima parte della domanda dell'ascoltatore, quindi vi chiedo gentilmente di riformularla. Certo. Sull'intelligence, io credo che di tutta l'infrastruttura che noi avevamo in Libia ancora abbiamo una serie di contatti, ancora abbiamo una serie di carte che ci permettono di avere una conoscenza del territorio e della realtà tale per cui si potrebbe arrivare a una missione come quella che si sta delineando, come quella che abbiamo immaginato. E chiaramente occorre però molto di più, soprattutto per creare le condizioni di sicurezza. Non ci dimentichiamo che una missione del genere potrebbe avvenire anche con non il consenso di tutti gli attori locali, e qui io uso un eufemismo. Non è eufemismo, c'è la certezza che non sarebbe così ovvio. Aia. Visto che parlare solo dei due governi, Tripoli e Tobruk, nella fattispecie è abbastanza inutile, perché le milizie, senza contare i vari gruppi terroristici, sono diversi e non necessariamente rispondono a Tobruk e a Tripoli. No, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Quindi diciamo c'è ci sarebbe una cornice di molto molto variegata, molto frastagliata, che comunque porterebbe il rischio della missione a livelli molto molto alti, per cui più intelligence sul terreno abbiamo, più capacità di ricognizione, più occhi che abbiamo sul terreno, meglio è. Quindi questo è il primo punto. Poi relativamente all'altra questione su chi ci potrebbe dire chi effettivamente no, cosa... ma più che altro questa missione internazionale, cioè questa disponibilità, vedremo quanto ampia, però per il momento si capisce che si potenzia molto la cooperazione militare nel centro mediterraneo. Ma il comando operativo, le decisioni operative per un tipo di coalizione di questo tipo, a prescindere dal fatto che secondo me senza una decisione dell'ONU mi pare improbabile, ma in ambo i casi a chi sta a quel punto il comando operativo? Ma guarda, io credo che le forze armate italiane e l'Italia abbia tutte le carte in regola per assumersi la leadership di questa missione, in sostanza. Il libro bianco che è uscito, che è stato presentato a Mattarella, al presidente Mattarella due giorni fa, in questo caso mi sembra di una chiarezza e di una limpidezza totale, laddove lo stesso libro bianco dice che l'Italia è pronta a assumersi la leadership di missioni militari ad ampio spettro nel Mediterraneo. E qui siamo per una questione che è a poche miglia dalle nostre acque. L'altro ascoltatore poneva la domanda, ma di quei 300-400 mila, a prescindere dall'efficacia di una qualunque ipotesi di dispositivo volto al blocco navale, ma quei 300-400 mila, 500 mila che stanno sequestrati, sfruttati, depredati nei diversi campi sulla costa e all'interno della Libia, chi se ne potrebbe occupare? Che soluzione è possibile immaginare? Guarda, chi se ne potrebbe occupare? Una domanda a cui credo peraltro di non avere neanche gli strumenti per rispondere in modo perché parliamoci confuso. Chiaro, una qualunque enclave umanitaria in Libia significa avere accordi con chi controlla il territorio in Libia, questo è. Per questo ritorniamo al problema originario, ovvero che finché non si stabilizza la situazione, finché non si arriva a questo governo di unità nazionale, riconosciuto quantomeno da una parte delle maggiori fazioni libiche, non si possono creare le condizioni per un intervento davvero efficace per alleviare questa situazione. Allora, noi qui ci dobbiamo fermare, vedremo la decisione del Consiglio Europeo di oggi, non fermatevi a quello, perché qui, come avete capito, c'è una questione politica, la Libia, e senza le Nazioni Unite su quello si fa poco. Intanto portiamo a casa e verifichiamo la disponibilità degli altri paesi. Comunque continuate con Radio 24, grazie a Pietro Battacchi, appuntamento come a domani.